Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Appena arrivò a casa, Rodolphe si buttò a sedere davanti alla sua scrivania, sotto la testa di cervo troneggiante attaccata al muro. Ma quando ebbe la penna tra le dita, non seppe cosa scrivere, e allora si appoggiò ai gomiti e cercò di riflettere. Lesse anche qualche lettera di lei. Traboccavano di spiegazioni intorno al viaggio, brevi, tecniche, assillanti come dispacci d'affari. Alla fine, annoiato, assonnato, rimise a posto la scatola nell'armadio e disse a se stesso: «Che mucchio di balle!» Era l'esatta sintesi dei suoi pensieri, poiché i piaceri, come scolari nel cortile di un collegio, avevano talmente pesticciato sul suo cuore che non poteva più spuntarvi un filo di verde. Chi passava per lo spiazzo arido, più stordito di quei ragazzacci, non vi lasciava neppure, come loro, il nome inciso sul muro. «Allora attacchiamo», si disse poi, e scrisse. «Coraggio, Emma, coraggio! Io non posso provocare la rovina della vostra esistenza. A parte tutto è la pura verità», pensò Rodolphe. «In fondo agisco proprio nel suo interesse, sono onesto». «Avete ben ponderato la vostra decisione? Avete idea dell'abisso in cui vi trascinerei, povero angelo? No, vero? Fiduciosa e folle sareste pronta a precipitarvi, credendo alla felicità, al futuro. Oh, disgraziati che siamo, incoscienti! Non vi dimenticherò mai, credetemi, avrò sempre per voi la più profonda devozione. Ma un giorno, presto o tardi, questo ardore, è il destino delle cose umane, sarebbe diminuito, senza dubbio. Allora avremmo provato la stanchezza, e chissà, mi sarebbe potuto toccare l'atroce dolore di assistere ai vostri rimorsi, di parteciparne io pure per essere stato la causa del vostro male. La sola idea delle pene che dovete patire mi tortura, Emma. Dimenticatemi. Perché mai ci siamo incontrati? E perché mi siete apparsa così bella? È colpa mia? Mio Dio, no e poi no! Accusate soltanto la fatalità!» «Ecco una parola che fa sempre il suo effettaccio», si disse. «La gente è crudele, Emma. Ovunque fossimo potuti scappare ci avrebbe perseguitato. Avreste dovuto subire l'indiscrezione, la calunnia, il disprezzo, magari l'oltraggio. L'oltraggio per voi. Oh, e io che vorrei innalzarvi su un trono. Io che porterò via con me la vostra immagine come un talismano. Poiché, dovete saperlo, mi punisco con l'esilio di tutto il male che vi ho fatto. Parto. Dove vado? Non so nulla. Impazzisco. Addio. Siate sempre buona. Serbate il ricordo dello sventurato che vi ha perduta». Le fiammelle delle due candele tremolavano. Rodolphe si alzò per andare a chiudere la finestra. Quando si risedette alla scrivania, concluse: «Mi pare proprio che ci sia tutto quel che deve esserci. Un momento, ancora una cosetta, perché non venga a ripescarmi. Sarò lontano quando leggerete queste tristi righe. Ho voluto fuggire il più in fretta possibile per evitare la tentazione di rivedervi. Non mi debbo concedere debolezze. Un giorno tornerò. Allora, forse, ci sarà consentito parlare insieme, con distacco, del nostro vecchio amore. Addio!» Aggiunse un ultimo addio, diviso in due parole. «A-Dio!» Che gli parve di ottimo gusto. «E adesso come mi firmo? Il vostro devotissimo? Ma che? Il vostro amico? Beh, facciamo così. Il vostro amico». Rilesse la lettera. Trovò che andava. «Povera donnaccola», pensò con una certa tenerezza. «Mi crederà più insensibile d'una pietra. Ci sarebbe voluta qualche lacrimuccia qui sopra. Ma io non so proprio piangere, io. Non è mica colpa mia. Sono fatto così, io». Versò un poco d'acqua in un bicchiere, poi vi intinse un dito. Lasciò cadere dall'alto una grossa goccia che produsse una pallida macchia sull'inchiostro. Mentre cercava come suggellare la lettera, si trovò in mano il sigillo «Amor nel cor». Dopodiché fumò tre pipe e andò a dormire. Il giorno dopo, quando fu in piedi, verso le 2 del pomeriggio, perché tra una cosa e l'altra si era pur sempre addormentato tardi, fece cogliere un cestino di albicocche. Nascose la lettera nel fondo sotto i pampini e ordinò senza altri indugi a Girard, il suo tuttofare, di portare con la massima delicatezza quell'omaggio alla signora Bovary. Quando arrivò, la signora Bovary era insieme a Félicité in cucina, stavano involtando un pacco di biancheria. «Ve lo manda il nostro padrone!» proclamò lo zotico. Lei fu assalita da un'improvvisa ansia. Mentre si cercava qualche spicciolo in tasca, osservava il messaggero con occhi stralunati e costui, da parte sua, la fissava con stupore, non riuscendo proprio a capire come un simile regalo potesse sconvolgerla tanto. Alla fine l'uomo se ne andò, ma restava sempre Félicité. Lei non ce la faceva più a contenersi. Scappò in sala come per portarvi le albicocche, rovesciò il cestino, strappò via le foglie, tirò su la lettera, l'aprì e, quasi fosse incalzata da un terribile incendio, prese la rincorsa verso la propria camera. Era troppo spaventata. Ma lì dentro c'era Charles. Se lo trovò davanti d'improvviso. Il marito le rivolse la parola, non lo sentì. Continuò a salire in fretta gli scalini, ansando, smarrita, ebbra, quell'orribile foglio di carta che le schioccava tra le dita come un pezzo di latta. Al secondo piano si fermò davanti alla porta del solaio. Era chiusa. Allora cercò di calmarsi. Si ricordò della lettera. Doveva arrivare in fondo, non ne aveva il coraggio. E dove, d'altronde? E come? Non così esposta agli occhi di tutti. Ah, non qui. Qui sarò tranquilla. Spinse quella porta. Entrò. L'ardesia del tetto lasciava cadere a piombo un pesante calore che le chiudeva le tempie in una morsa, le strozzava il respiro sulle labbra. Si era appoggiata al vano dell'abbaino, rileggeva quella lettera, ridendo d'ira. Ma più si sforzava di concentrare la propria attenzione, più le idee le si confondevano. Lo rivedeva lei, lo sentiva lei, lo stringeva con le sue braccia lei. I battiti del cuore, che le squassavano il petto con una violenza d'ariete, andavano accelerando a intermittenze irregolari. Si girava gli occhi intorno con il desiderio che l'intera terra crollasse. Perché non farla finita? Chi poteva trattenerla in vita? Non c'erano più legami che contassero. Si sporse, guardò il selciato, si disse «Basta, basta!» «Moglie! Moglie mia!» gridò Charles. Si irrigidì. «Ma dove sei? Vieni!» L'idea di essere appena sfuggita alla morte la fece quasi svenire di paura. Chiuse gli occhi. Poi trasalì al contatto di quelle dita sulla sua manica, Félicité. «Il signore vi aspetta, signora! La minestra è in tavola!» E dovette scendere. Dovette sedersi al desco. Tentò di mangiare. I bocconi la soffocavano. Allora spiegò il tovagliolo come per esaminarne i rammendi e volle davvero applicarsi al conto dei fili della tela. Ma di colpo insorse in lei il ricordo della lettera. L'aveva perduta. Dove poteva essere finita? Ma si sentiva talmente stanca, stremata proprio mentalmente. Non riuscì a escogitare un pretesto per alzarsi da tavola. Ormai era diventata anche vigliacca. Temeva Charles. Sapeva tutto lui, potevano esserci dubbi. Effettivamente, lui disse qualcosa di strano a un certo punto. «Non vedremo molto presto il signor Rodolphe, a quanto pare.» «Chi te l'ha detto?» trasalì lei. «Chi me l'ha detto?» replicò lui, ed era piuttosto sorpreso da quel tono brusco. «Ma me l'ha detto Girard. L'ho incontrato poco fa alla porta del caffè francese. È partito, o sta per partire per un viaggio.» Lei ebbe un singhiozzo. «Non te l'aspettavi?» «Via, eppure lo dovresti sapere che ogni tanto se ne va in giro a divertirsi. Parola mia, l'approvo. Quando si è ricchi e si è scapoli, ed è uno sempre pronto a divertirsi il nostro amico, un capo scarico. Il signor Langlois mi ha raccontato...» D'improvviso un tilburi turchino passò al gran trotto per la piazza. Emma gettò un grido. Cadde riversa, corpo morto. Dopo molte riflessioni, Rodolphe si era effettivamente deciso a partire per Rouen. E dato che dalla Huchette a Bichy l'unica strada possibile è quella di Yonville, aveva dovuto attraversare il paese. Emma lo aveva riconosciuto alla luce dei fanali che fendevano d'un lampo il crepuscolo. Al tumulto che seguì in casa del dottore, il farmacista non poteva restare indifferente. Accorse. La tavola era rovesciata con tutti i piatti, salsa, carne, coltelli, saliera, oliera, erano sparpagliati nella stanza. Charles invocava aiuto. Berthe strillava spaventata. Félicité armeggiava con le mani tremanti, cercando di slacciare la padrona squassata dalle convulsioni. Charles era impietrito davanti all'alcova. Accanto a lui il farmacista ostentava quel pensieroso silenzio che si addice alle più gravi circostanze. «Tranquillizzatevi», disse alla fine toccando il gomito del medico. «Credo proprio che il parossismo sia passato». «Sì, adesso riposa un poco», disse Charles e la guardava dormire. «Oh, povera donna, povera donna! Ci risiamo con il suo male!» Allora Homais si informò come era capitato l'accidente. Charles rispose che era successo così, d'improvviso. «Straordinario!» sentenziò il farmacista. «Ma la vostra signora moglie, vi confesso, che mi è sempre parsa una vera sensitiva. Così non vi consiglierei proprio, caro amico, nessuno di quei presunti rimedi che, con il pretesto di combattere i sintomi, combattono il temperamento. No, no, no, evitare i medicinali superflui. Una dieta, invece, e un poco di sedativi, di emollienti, di dolcificanti». Ma Emma si svegliò, gridava. «E la lettera? La lettera?» Credettero che fosse in delirio. In realtà, il delirio cominciò dopo la mezzanotte. S'era manifestata una febbre cerebrale. Per 43 giorni Charles non l'abbandonò mai. Non pensò più ai suoi malati. Non si coricava neppure. Era sempre lì a tastarle il polso, ad applicarle senapismi, compresse d'acqua fredda. Spediva Justin sino a Neuchâtel in cerca di ghiaccio. E il ghiaccio si scioglieva per strada. Lui tornava a spedire il ragazzo. Chiamò a consulto il dottor Canivet. Fece venire da Rouen il professor Lariviere, che era stato suo maestro. Era disperato. Soprattutto lo atterriva l'abbattimento di Emma. Non parlava più lei, non stava a sentire, non pareva neppure soffrire. Era come se il suo corpo e la sua anima avessero insieme dimenticato ogni passata agitazione. A metà d'ottobre lei poté mettersi a sedere sul letto con dei cuscini dietro. Charles scoppiò in lacrime quando la vide mangiare la sua prima tartina spalmata di marmellata. A poco le tornarono le forze. Si alzava a qualche ora il pomeriggio. Una volta che pareva star meglio, lui tentò di farle fare, sorreggendola, un giro in giardino. La sabbia dei sentieri scompariva sotto le foglie morte. Lei metteva un piede davanti all'altro piano piano, strascicando le pantofole, appoggiandosi alla spalla del marito. Il suo sorriso era fisso. Arrivarono in questo modo sino in fondo, vicino alla terrazza. Allora lei si raddrizzò lentamente, si mise una mano davanti agli occhi per guardare. Guardò lontano, molto lontano, ma all'orizzonte c'erano solo grandi fuochi d'erbe secche. Ne fumavano tutte le colline. «Ti stancherai, tesoro», disse Bovary. Spingendola dolcemente per farla entrare sotto la pergola, aggiunse: «Siediti su questa panchina, riposati». «No, lì no, lì no», protestò lei con un fil di voce. Ebbe un capogiro. Da quella sera la malattia riprese con andamento più incerto, è vero, e caratteri più complessi. Ora le doleva il cuore, ora le doleva il petto, ora le doleva il cervello, ora le dolevano tutte le membra. Sopravvennero anche crisi di vomito, e Charles temette di vedervi i primi sintomi d'un cancro. Povero disgraziato, oltre a tutto, aveva delle preoccupazioni economiche. Tanto per cominciare, Charles non sapeva come disobbligarsi con Omé per tutti i ritrovati presi in farmacia. Sebbene, essendo medico, non fosse tenuto a pagarli, arrossiva un poco all'idea di aver contratto un simile debito di gratitudine. Poi c'erano le spese di casa. Adesso che la serva era diventata padrona, facevano addirittura spavento. Piovevano conti sempre più salati e i fornitori cominciavano a mormorare ormai. Leroux soprattutto non gli lasciava tregua. Proprio nel periodo critico della malattia di Emma, approfittando della circostanza per caricare le fatture, costui si era fatto avanti, portando il mantello, la borsa da notte, due bauli invece di uno e una quantità d'altre cose. Charles ebbe un bel dire che non ne aveva affatto bisogno. Il merciaio gli rispose arrogantemente che a lui tutta quella roba era stata ordinata, non l'avrebbe mai presa indietro, e d'altronde sarebbe stato proprio un contrariare la signora durante la convalescenza. Ci riflettesse il signore. A ogni modo lui era deciso a intentargli causa piuttosto che rinunciare ai propri diritti e ritirar quegli articoli. Charles ordinò in seguito di riportar tutto al negozio del merciaio. Félicité se ne dimenticò, lui aveva altro per la testa. Non ci pensò più. Leroux ritornò alla carica e ora minacciando, ora gemendo, seppe manovrare in modo che Bovary si piegasse a sottoscrivere un pagherò a 6 mesi. Subito dopo aver firmato, però, ebbe un'idea ardita. E perché non chiedere 1.000 franchi in prestito a Leroux? Si informò dunque, con aria impacciata, se non ci fosse la possibilità di averli per un anno, aggiunse, a qualsiasi interesse. L'altro corse in bottega, tornò con gli scudi e dettò un nuovo pagherò con cui Bovary si impegnava a versare all'ordine del signor Leroux il prossimo 1° settembre la somma di 1.070 franchi, che insieme con i 180 già pattuiti facevano giusto 1.250. Così, prestando al 6%, aumentato d'un quarto per commissione, guadagnando almeno un buon terzo sulle forniture, Leroux calcolava di ottenere in 12 mesi un beneficio di 130 franchi e sperava che l'affare non fosse destinato a finire lì, che le cambiali non venissero pagate alla scadenza e dovessero quindi essere rinnovate, che in tal modo il suo povero denaro, ristoratosi presso il medico come in una casa di cura, gli sarebbe tornato un giorno considerevolmente arrotondato, rimpinguato da far scoppiare la borsa. Charles si chiese più di una volta come avrebbe potuto restituire una simile somma l'anno seguente e cercava, immaginava espedienti, ad esempio ricorrere al padre o vendere qualcosa. Ma suo padre avrebbe di sicuro fatto il sordo. E lui non aveva nulla da vendere. Allora si sentiva così a disagio che scartava frettolosamente dalla propria coscienza quell'argomento di meditazione troppo spiacevole. Si rimproverava di dimenticare Emma, come se, appartenendo ogni suo pensiero a quella donna, il non pensare a lei continuamente significasse defraudarla di qualche cosa. L'inverno fu duro. La convalescenza della signora fu lunga. Quando faceva bel tempo, la spingevano nella sua poltrona vicino alla finestra. Dalle tettoie del mercato, la neve proiettava nella camera un riflesso bianco, immobile. Poi ci fu la pioggia. Non smetteva mai di cadere. Ed Emma ogni giorno stava lì ad aspettare con una specie d'ansia il ripetersi immancabile di avvenimenti infimi che del resto non avevano alcuna importanza per lei. Il farmacista consigliò a Charles di portare la moglie al teatro di Rouen. L'illustre tenore Lagardy avrebbe potuto distrarla. L'idea di quello spettacolo mise rapidamente radici nella testa di Bovary. Infatti lui lo disse subito alla moglie, che dapprima rifiutò adducendo la stanchezza, il disagio, la spesa. Ma, caso straordinario, Charles non cedette, tanto era convinto dei vantaggi di una simile distrazione. Impedimenti non ne vedeva. Sua madre gli aveva appena inviato 300 franchi su cui non faceva proprio più affidamento. I debiti correnti non erano eccessivi e la scadenza delle cambiali di Leroux ancora così lontana che non c'era da pensarci adesso. Sospettando che la moglie rifiutasse per riguardo a lui, Charles insisté con ostinazione. Lei dovette arrendersi. Il giorno dopo, alle 8, si imbarcarono sulla rondine. Thank you.